America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Tra poco, subito aver battuto, scosso un intero stato, la Florida, Irma sarà degradato a tempesta tropicale. Questo uragano che ha seminato morte e distruzione lungo tutti i Caraibi, in un viaggio di migliaia di chilometri, finirà in Georgia, poco più a nord, indebolito, molta pioggia e vento, ma meno distruzione, meno di quella che abbiamo visto appunto in Florida, a Tampa. I tre quarti della popolazione in molte città dello Stato sono rimaste senza elettricità. Milioni di evacuati in 350 rifugi. La forza distruttrice di Irma dovrebbe aver fatto danni complessivi in Florida, solo in questo Stato, per 300 miliardi di dollari. Beh, aggiungiamoli ai 200 in Texas ed ecco che c'è una botta di 500 miliardi di dollari in negativo per l'economia americana. E siamo arrivati a lunedì 11 settembre, si cerca di tirare un sospiro di sollievo, ma è anche il 16° anniversario dell'attacco alle Due Torri e all'America, che fece 2.995 morti, tra cui 343 vigili del fuoco e 60 poliziotti. Vien fatto di pensare che oggi, come allora, è importante riflettere sul dopo, come contenere il danno e il rischio di questi cataclismi climatici. E devo dire che se facciamo un bilancio della guerra al terrorismo, beh, il risultato in questi 16 anni non è incoraggiante. Le cose oggi, dopo molte guerre, sono peggiorate invece di migliorare. Spero che non capiti lo stesso con la sfida che ci arriva da madre natura, perché c'è davvero poco da scherzare. Qualcuno su Twitter ha scritto: se non è la fine del mondo, mi sembra che ci avviciniamo alle grandi prove generali. Insomma, forse l'avete capito, qui non mi riferisco soltanto a Irma. Il fatto è che oggi, mentre vi parlo, dopo Harvey, che ha distrutto Houston e buona parte del Texas, ci sono tre uragani contemporanei, cosa che non succede mai, perché dietro a Irma è già partito José al largo dell'Atlantico, si sta scatenando Katia, anche lei un forza 5. Non verranno direttamente sul continente, non sono previsti impatti terrestri, dovrebbero morire in mare, ma un altro forza 5. Pensate che dal 1851 ad oggi ci sono stati solo tre uragani forza 5. Ora ne abbiamo avuti due in una settimana. Aggiungo il terremoto forza 8.2 della scala Richter in Messico, il primo che si registra di questo livello dal 1985, le alluvioni in India, in Bangladesh, e che dire del gigantesco iceberg che si è staccato dall'Antartide appena poche settimane fa. La sua superficie è più grande della Liguria, quasi 5.800 km quadrati. Possibile che tutto capiti per caso? Possibile, molti lo dicono, insistono. Ecco, detto questo, non possiamo ignorare le coincidenze e non possiamo non porci l'altra domanda, e cioè: possibile invece che questi disastri siano la conseguenza dei molti fortissimi cambiamenti climatici che stiamo osservando, generati da uno scarso controllo delle emissioni? Eh beh, forse sì. Di certo ne sono convinti alle Nazioni Unite. La settimana prossima si apriranno i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Il segretario generale Guterres ha già annunciato che i cambiamenti climatici saranno in testa all'agenda dei lavori della 72esima Assemblea Generale, alla quale tra l'altro interverrà il nostro Presidente del Consiglio Gentiloni. Ecco, lo saranno in testa all'agenda insieme alla Corea del Nord. Is your career over? Yes, as an active politician. It's over. I am done with being a candidate. Hillary Clinton intervista alla CBS Sunday Morning, sta promuovendo il suo nuovo libro What Happened, dice: come candidato ho chiuso, la sconfitta contro Donald Trump resta una ferita molto dolorosa, non mi presenterò di nuovo, la carriera politica è finita. Hillary ha 69 anni e non può evitare di seguire, di osservare quello che sta capitando sotto la guida di colui che l'ha sconfitta alle presidenziali. E devo dire, ci sono sempre delle sorprese. È possibile che Donald Trump stia virando verso la bipartisanship, verso l'indipendenza? L'accordo con i democratici della settimana scorsa per evitare la chiusura del governo è significativo. È stato concluso grazie alla mediazione del senatore democratico Schumer, capo della minoranza al Senato. E torno a dire, il New York Times si chiede: possibile che Trump alla fine sia un presidente indipendente e che voglia lavorare con una sua maggioranza? Di certo i suoi compagni repubblicani sono infuriati, soprattutto quelli della destra. E certo questo è un capitolo a parte molto interessante, ne parleremo nei prossimi giorni, una delle tante sfaccettature imprevedibili della presidenza Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, 11 settembre vi dicevo, e dunque insomma questa canzone del giorno dedichiamola alla memoria delle vittime dell'11 settembre, ma anche alla popolazione colpita dagli uragani. Paul Simon, Sounds of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.